42. Storia autentica di un fantasma. Per ragioni facili a indovinarsi, le storielle di spiriti e fantasmi si propagarono in quel frattempo più del solito fra i servi di Legree. Si asseriva sommessamente che nel silenzio della notte era stato udito un rumore di passi su per la scala della soffitta e poi in tutta la casa. Invano avevano chiuso a catenaccio la porta dei piani superiori. Il fantasma aveva doppia chiave in tasca, oppure si giovava del privilegio, del quale gli spiriti godono da tempo immemorabile, di passare attraverso il buco della serratura e passeggiava come bell'innanzi con una libertà da sgomentare. Le opinioni discordavano circa la forma esteriore dello spirito e ciò proveniva dall'uso che hanno i neri e qualche volta i bianchi di chiudere gli occhi e cacciare la testa sotto le coperte quando si offre alla loro vista uno spirito. Naturalmente, come ognuno sa, quando gli occhi del corpo si trovano in quello stato, gli occhi della mente hanno un'acutezza non comune. Per conseguenza si faceva gran numero di ritratti del fantasma, tutti accertati per veri, ma come spesso avviene in tali cose, nessuno di quei ritratti rassomigliava all'altro, eccetto che nel segno caratteristico della famiglia degli spiriti, il lungo lenzuolo bianco. Quei poveri schiavi non erano versati nella storia antica, altrimenti avrebbero saputo che Shakespeare ne determinò la foggia del vestire dicendo come i morti in bianco lino ivan gemendo por le vie di Roma. Una tal coincidenza delle opinioni di Shakespeare e dei neri è un fatto notevole di pneumatologia che noi ci facciamo lecito di raccomandare all'attenzione dei dotti. Ad ogni modo abbiamo buone ragioni per credere che nelle ore consacrate in ogni tempo agli spiriti una gran figura vestita di bianco si aggirava intorno agli appartamenti di Legree, passava per gli usci, spariva tratto tratto e ricomparendo saliva alla soffitta fatale. Sappiamo ugualmente che la mattina si trovavano le porte chiuse a chiave, come alla sera. Legree cioncava perciò più acquavita del solito, portava alta la testa e durante il giorno tempestava e bestemmiava con maggior fracasso di prima, ma ciononostante egli faceva cattivi sogni e le visioni del suo cervello erano sempre più tetre. La notte, dopo che fu portato via il cadavere di Tom, Legree si recò alla città vicina e quivi si abbandonò interamente alla crapula. Tornò tardi alla piantagione, stanco dallo stravizio, chiuse attentamente la porta e andò a coricarsi. Il malvagio può soffocare quanto vuole i suoi rimorsi, ma la coscienza è per lui un'ospite inquieta e formidabile. Chi può comprendere i dubbi e le paure che lo assediano? E i suoi forse e quei brividi, quei timori che egli non può vincere, come non può annientare la propria eternità. Stolto colui che chiude a chiave l'uscio della sua camera per impedire l'ingresso agli spiriti mentre ne porta uno nel cuore, col quale non osa trovarsi da solo. Uno spirito la cui voce non può essere mai soffocata e che risuona sempre come la tromba dell'estremo giudizio. Legree aveva girato la chiave di dentro e posto una sedia contro l'uscio della camera, poi, collocata una lampada al suo capezzale, vi pose vicino le pistole e visitò le imposte e i ferri delle finestre. «E ora», disse bestemmiando, «mi rido del diavolo e dei suoi agenti». Andò a letto e dormì. Dormì perché era stanco, dormì profondamente, ma un'ombra venne in sogno su di lui, un brivido, un'apprensione di qualche cosa di spaventevole che stava sospeso sul suo capo. Credette fosse il lenzuolo funebre di sua madre, ma era Cassie, che lo teneva sollevato e lo agitava dinanzi a lui. Egli udiva un rumore confuso di grida e di gemiti e in mezzo a tutto ciò si accorgeva di dormire e faceva sforzi per svegliarsi e finalmente si svegliò a metà. Egli era certo che qualcuno entrava nella sua camera e che l'uscio si apriva a poco, ma non poteva muovere né le mani né i piedi. Da ultimo gli riuscì pure di voltarsi e vide, e rabbrividì, l'uscio era aperto e una mano spegneva la lampada. Al fioco raggio della luna velata di nubi egli vide qualche cosa di bianco che si dileguava, poi udì il leggero fruscio delle vesti del fantasma e questo fantasma si teneva immobile vicino al suo letto. Una mano gelida lo toccò, una voce mormorò per 3 volte con un accento lugubre e misterioso: «Vieni, vieni, vieni!» E mentre egli giaceva là sudando di terrore, quella cosa, non sapeva come, era scomparsa. Egli balzò fuori del letto e andò a scuotere l'uscio. Era chiuso, chiuso a chiave. L'uomo rabbrividì e stramazzò. Da allora in poi Legree si diede alla crapula più di prima, beveva all'impazzata e senza freno. Ben presto nel paese vicino si propagò la notizia che Legree era ammalato e moribondo. Gli stravizi gli avevano fruttato quella terribile infermità che i medici chiamavano delirium tremens e che sembra gettare sulla vita presente le luride ombre della retribuzione futura. Nessuno può descrivere l'orrendo spettacolo della sua agonia. Egli gridava, urlava e parlava di apparizioni che agghiacciavano tutti di spavento. Al suo letto di morte vedeva ritta dinanzi a sé una bianca figura, torva, inesorabile, che gli ripeteva di continuo: «Vieni! Vieni, vieni!» Per una strana coincidenza, dopo la notte in cui Allegria apparve questa visione, la porta della casa fu trovata aperta sul far del giorno e alcuni degli schiavi di Legree avevano veduto due bianchi fantasmi scendere nel viale e correre verso la strada maestra. Il sole era vicino a levarsi quando Cassie ed Emmeline si soffermarono presso un gruppo d'alberi non lungi dalla città. Cassie era tutta vestita di nero alla foggia delle creole spagnole. Un cappellino coperto da fitto velo ricamato le nascondeva il volto. Era stato risolto che nella loro fuga Cassie rappresenterebbe una signora creola ed Emmeline la sua fantesca. Educata fin dai primi anni in mezzo alle più alte classi della società, Cassie, col suo parlare, coi suoi modi e con tutta la persona, era atta a compiere quel divisamento e aveva conservato della sua guardaroba ad un tempo e dei suoi gioielli quanto bastava per rappresentare bene la sua parte. Fermatesi in un sobborgo della città dove ella aveva visto dei bauli da vendere, ne acquistò uno assai bello e pregò il mercante che glielo facesse portare. Accompagnata così dal garzone che portava il baule sopra una carriola e da Emmelina che aveva in una mano il suo sacco da viaggio e nell'altra vari involti, entrò nella piccola locanda come una signora di riguardo. La prima persona che incontrò, dopo essere giunta colà, fu Giorgio Shelby. Dalla finestrella della soffitta ella aveva veduto il giovane trasportare via il corpo di Tom e provato una segreta esultanza quando aveva dato quel sonoro pugno a Legree. Poi, per i discorsi che ella aveva udito dai neri nelle sue passeggiate notturne sotto il travestimento di fantasma, aveva potuto sapere chi egli fosse e quali fossero le relazioni di lui con Tom. Perciò sentì subito aumentare la sua fiducia nel giovane appena seppe che gli aspettava, al pari di lei, il vicino piroscafo. L'aspetto, i modi, la disinvoltura di Cassie, il denaro di cui pareva largamente provvista, tennero lungi da lei ogni sospetto. La gente non guarda troppo per il sottile quando le cose corrono a dovere sul punto capitale, che è di pagar bene, cosa che Cassie aveva preveduta quando si munì di una buona somma di denaro. Sul cadere del giorno si seppe che era giunto il piroscafo e Giorgio Shelby, con la gentilezza che è dell'indole di ogni abitante del Kentucky, porse mano a Cassie per salire a bordo e si ingegnò di procurarle un buon posto. Sotto pretesto di un'indisposizione, Cassie per tutto il tempo del viaggio sul Fiume Rosso rimase a letto. La sua compagna le prestava ogni più amorevole cura. Quando giunsero al Mississippi, Giorgio, saputo che la straniera aveva intenzione di risalire come lui per il fiume, le propose di imbarcarsi sullo stesso piroscafo ambedue. Compativa l'inferma salute di lei e desiderava di fare qualche cosa per darle un po' di sollievo. Ecco dunque i nostri viaggiatori sani e salvi a bordo dell'eccellente piroscafo, il Cincinnati, che va a ritroso del fiume. La salute di Cassie migliorava. Ella sedette sulla tolda, venne a tavola e fu osservata dai passeggeri come una signora che doveva essere stata assai bella. Giorgio, fin dalla prima volta che l'aveva veduta, era rimasto colpito da una di quelle vaghe e indefinibili somiglianze che si incontrano spesso e che rendono pensosi. Cassie cominciò ad essere inquieta, pensando che fosse nato in lui qualche sospetto, perciò risolvette di affidarsi interamente alla sua generosità e narrargli la sua storia. Giorgio era disposto a simpatia verso chiunque fosse fuggito dalla piantagione di Legree. Non poteva ricordarsi e parlare di quel luogo senza provare un senso di ira misto a ribrezzo. Non curante delle conseguenze, come avviene alla sua età, egli assicurò Cassie che proteggerebbe in ogni modo lei e la sua compagna. La cameretta prossima a quella di Cassie era occupata da una signora francese per nome Détou, che aveva a seco una leggiadra fanciullina di forse 12 anni. Questa signora, avendo saputo, nel conversare con Giorgio, come egli fosse del Kentucky, pareva incline a far meglio la sua conoscenza, nel qual divisamento fu secondata dalle grazie della sua bimba, che offriva la più gradita distrazione a chi doveva fare un viaggio di 15 giorni sopra un legno a vapore. La sedia di Giorgio si trovava posta a sovente all'uscio del camerino della signora Détou e Cassie, dal luogo dove era seduta, poteva udire la loro conversazione. La signora Détou gli faceva mille domande sul Kentucky, dove ella aveva dimorato, diceva nella sua infanzia. Giorgio fu sorpreso di sentire che ella aveva dimorato vicino alla sua abitazione. Le domande da lei fatte e la conoscenza dimostrata delle persone e delle cose di quel paese lo colmavano di grata meraviglia. «Conoscete voi», gli disse un giorno la signora Détou, «dalle vostre parti qualcuno che porti il nome di Harris?» «C'è un vecchio di tal nome che non abita lungi dalla casa di mio padre», disse Giorgio, «ma non stringemmo mai relazione con lui». «Egli è un gran possidente di schiavi, credo», disse la signora Détou con una commozione che invano si sforzava di dissimulare. «Sì, certo, signora», replicò Giorgio con maraviglia. «Avete mai saputo che gli abbia... forse potete avere inteso dire che gli possieda un mulatto per nome Giorgio?» Sì, Giorgio Harris. Oh, lo conosco bene. Egli si ammogliò con una cameriera di mia madre, ma ora è fuggito al Canada». «È fuggito?» chiese la donna prontamente. «Ah, sia lodato Iddio!» Giorgio la guardava attonito, senza dir nulla. La signora Détou si nascose la faccia nelle mani e proruppe in lacrime e quindi esclamò: «È mio fratello!» «Davvero?» fece Giorgio con accento di stupore profondo. «Sì!» soggiunse la signora Détou, rialzando il capo alteramente e tergendo le lacrime. «Signor Shelby, Giorgio Harris è mio fratello!» «Sono stupefatto», disse Giorgio, e spinse indietro la sua sedia per guardare meglio la signora Détou. «Mi vendettero per il Sud, quando egli era ancora fanciullo. Fui comprata da un uomo buono e generoso che mi menò seco alle Antille, mi emancipò e mi fece sua moglie. Da poco egli è morto, io tornavo ora al Kentucky per trovarvi mio fratello e riscattarlo». Infatti, più volte lo udii parlare di una sua sorella, Emilia, che era stata venduta per il Sud. Disse Giorgio Shelby. Sì, è vero, sono io stessa e da che siete tanto gentile, signore, ditemi, ve ne prego, qualche cosa di lui. Oh, è un bellissimo giovane, disse Giorgio. E quantunque la maledizione della schiavitù abbia pesato su lui, diede prova di intelligenza e di onesti principi, io lo so, vedete, perché si ammogliò nella nostra famiglia. Che sorta di donna egli prese? Domandò la signora Détou vivacemente. Oh, un tesoro, disse Giorgio, una bella, intelligente, graziosa giovane. Mia madre l'allevò con così grande amore come se fosse stata sua propria figlia. Ella sapeva leggere, scrivere, ricamare e cucire e cantava meravigliosamente. Era nata in casa vostra? Chiese la signora Détou. No, mio padre ne fece acquisto in uno dei suoi viaggi a New Orleans per farne un presente alla madre mia. Ella aveva allora 8 o 9 anni circa. Mio padre non volle mai dire quanto gli fosse costata, ma l'altro giorno, rovistando nelle sue vecchie carte, ci venne sotto mano il contratto di acquisto e gli aveva dato per lei una somma esorbitante a cagione forse della sua straordinaria bellezza. Giorgio voltava le spalle a Cassie, perciò non vide l'espressione di attenta curiosità con cui lei ascoltava quei particolari. In questo punto ella lo toccò al braccio e con viva commozione disse: «Sapete da chi vostro padre la comprasse?» Un certo Battles era il venditore, certo Simone fu quegli, credo, che trattò l'affare, almeno tali nomi erano scritti sul contratto. «Oh mio Dio! Oh mio Dio!» esclamò Cassie e cadde svenuta sul pavimento. Giorgio e la signora Détou si alzarono prestamente per darle soccorso, benché non potessero sapere la cagione di quel male improvviso, e le si affaccendavano intorno, come quasi sempre avviene in simili casi. Nell'ardore della sua umanità, Giorgio rovesciò una secchia e ruppe due bicchieri, e tutte le signore che erano nella sala, udendo che qualcuna si sentiva male, fecero calca all'uscio della cameretta intercettando l'aria quanto era possibile. Insomma, le cose andarono come vanno di solito. Povera Cassie, quando ella tornò in sé, volse la faccia alla parete e pianse e singhiozzò al pari di un fanciullo. Madri, voi sole potreste dire forse che ella stava pensando, e forse non lo potete nemmeno. Ella diceva a se stessa che Dio le usava misericordia e che oramai era sicura di riveder la figlia, come di fatti avvenne pochi mesi dopo quando. Ma non anticipiamo il corso degli avvenimenti. 43. Epilogo. Il resto della nostra storia sarà in breve narrato. Giorgio Shelby, mosso da quell'avventura romanzesca non meno che da sentimenti di umanità, consegnò a Cassie il contratto di vendita concernente Elisa. La data e i nomi corrispondevano ai fatti da lei conosciuti, né le lasciarono dubbio alcuno sull'identità di sua figlia. Non rimaneva ora che rintracciare i fuggitivi. La signora De Thou e Cassie, per tal modo unite dalla strana coincidenza delle loro sorti, si avviarono subito al Canada e incominciarono a visitare le stazioni dove sono accolti gli schiavi fuggiaschi che passano in gran numero il confine. Trovarono in Hammersburg il missionario presso cui Giorgio ed Elisa si erano ricoverati al loro primo giungere al Canada e, per le indicazioni di lui, poterono seguirne le tracce fino a Montreal. Giorgio ed Elisa già da 5 anni godevano della loro libertà. Giorgio, lavorando presso un meccanico, guadagnava tanto da mantenere la propria famiglia che si era accresciuta di una bimba. Enrico, diventato un bel giovinetto, era stato messo in un buon istituto e vi faceva rapidi progressi. Il degno pastore di Hammersburg fu tanto commosso nell'udire i casi delle due donne che volle accompagnarle a Montreal per agevolare le loro indagini. Trasportiamoci ora in una bella casetta nei sobborghi di Montreal. Si fa notte, un allegro fuoco brilla nel focolare, la tavola è apparecchiata per il tè e da un altro lato della stanza, sopra un'altra tavola coperta da un tappeto verde e sormontata da uno scaffale a foggia di libreria, sono penne, carta e calamaio. Quello è lo studio di Giorgio, il quale ha conservato il desiderio di istruirsi, nonostante le fatiche quotidiane. In questo momento egli sta seduto alla scrivania e prende degli appunti. Vieni, Giorgio, diceva Elisa, sei stato fuori tutto il giorno, lascia un po' i tuoi libri e discorriamo un tantino mentre io preparo il tè. La bimba secondava lo sforzo, procurando di togliere il libro dalle mani del padre e di arrampicarsi sulle ginocchia di lui. Ah, sei tu, folletto, disse Giorgio, cedendo come in tali casi un uomo deve fare sempre. Bene, disse Elisa, tagliando alcune fette di pane. Ella è divenuta un poco più grassetta e ha i capelli più severamente acconciati. Dimostra maggiore età senza essere ancora vecchia e un'aureola di tranquillità e di pace domestica si diffondono intorno al suo viso. Enrichetto, disse Giorgio, ponendo la mano sulla testa di suo figlio, sei venuto a capo del tuo calcolo? Il piccolo Enrico non ha più i capelli lunghi, ma ha conservato la sua arietta altera e i begli occhi neri che si animano di un leggiadro orgoglio mentre risponde: L'ho fatto da me solo, babbo, e nessuno mi ha aiutato. Così va bene, figlio mio, fa sempre da te. Hai tali mezzi di istruirti quali non ebbe mai tuo padre. In quell'istante si ode bussare alla porta, Elisa corre ad aprire ed esclama lietamente: Oh, siete voi! A queste parole Giorgio si alza ed accoglie con segni di rispetto il buon pastore di Hammersburg. Due donne sono con lui, ed Elisa le prega di sedersi. Ora, per dire il vero, l'onesto ecclesiastico aveva preparato un piccolo programma sul modo di compiere quell'affare e tutti, cammin facendo, si erano scambievolmente esortate a non operare se non secondo gli accordi presi. Il brav'uomo, fatto cenno alle due signore di sedersi, trasse di tasca il fazzoletto per pulirsi la bocca e stava per intraprendere un discorso preliminare in piena regola, ma qual fu la sua costernazione quando la signora De Thou, rompendo ogni proponimento, si gettò al collo di Giorgio, esclamando: Oh Giorgio, non mi ravvisi, sono tua sorella. Cassie rimase più calma e avrebbe rappresentato bene la sua parte se non fosse stata la piccola Elisa, che le venne dinanzi, similima in tutto alla sua propria figlia quando la vide per l'ultima volta. La bimba, La guardava in volto con aria di stupore. Cassie la prese in braccio e se la strinse al cuore, esclamando come in quel momento credeva veramente cara: «Io sono tua madre!» Insomma, era difficile ristabilire l'ordine, ma il degno pastore, ottenuto che ebbe da tutti un po' di quiete, disse il discorso che aveva preparato per aprire la seduta e ne fu sì grande l'effetto che l'uditorio piangeva, in modo da rendere soddisfatto qualsiasi oratore, antico e moderno. Tutti si inginocchiarono e l'ottimo pastore si mise a pregare, poiché vi sono sentimenti così tumultuosi che hanno tregua soltanto quando siano versati in seno alla religione. Alzatisi poi i membri della famiglia, di recente adunata, si abbracciarono con vera fiducia che per tanti casi strani e per vie così strane erano stati riuniti. Il taccuino di un missionario fra gli schiavi fuggitivi nel Canada contiene spesso fatti veri più strani di qualsiasi invenzione romanzesca e potrebbe non essere così, mentre prevale un regime che svelle le famiglie e ne disperde i membri come il vento d'autunno le foglie. Quelle rive di rifugio, spesso come la riva eterna, riuniscono in lieta comunione cuori che per lunghi anni piansero l'un l'altro senza speranza di ritrovarsi quaggiù, e sono oltre ogni dire commoventi la premura con cui ogni nuovo arrivato è accolto, l'ansia con cui è tempestata di domande da chi pensa che forse possa dare notizie di una madre, di una sorella, di una sposa, di un figliuolo perduti di vista nelle tenebre della schiavitù. Là si compiono atti eroici quali mai fantasia di romanziere ha immaginati. Non di rado uno dei redenti, sfidando le torture, affrontando la morte, riprende la via del pericolo e del terrore verso la terra oscura per tentare di trarre a salvamento qualche persona cara. Un missionario ci narrò che un giovane, due volte ripreso e barbaramente frustato, era di nuovo fuggito. In una lettera che ci venne fatto di leggere, egli annunzia agli amici suoi che torna indietro la terza volta per liberare la propria sorella. Cara lettrice, quest'uomo è un eroe o un malfattore? Chi non farebbe altrettanto per la propria sorella e chi potrebbe biasimarlo? Ma torniamo ai nostri amici che lasciamo intenti a riaversi da una gioia troppo viva e improvvisa. In 2 o 3 giorni avvenne in Cassie un tale cambiamento che i nostri lettori appena la ravviserebbero. Alla tetraggine disperata del suo volto era successa una soave espressione di fiducia. Ella è nel seno della sua famiglia e ha per i nipotini un'affezione che mancava al suo cuore. Si direbbe che ella inclini ad amare Lisetta più della sua propria figliuola, perché in quella vede la precisa immagine della bambina che le fu tolta. La piccola Lisa è pertanto una catena di fiori tra l'una e l'altra, sicché cresce ogni giorno tra le due donne l'intrinsechezza e l'amore. La pietà sincera e costante di Lisa, illuminata dalla lettura della sacra parola, fu una sicura guida per la mente stanca di sua madre, la quale con tutta l'anima si abbandonò ad ogni buona influenza e divenne tenera di cuore e molto pia. Dopo un giorno o due, la signora De Thou fece noti a suo fratello, più particolarmente i suoi affari. La morte di suo marito l'aveva lasciata padrona di beni ingenti che ella offriva generosamente di dividere con la propria famiglia. Quando domandò a Giorgio in che modo poteva giovargli, egli rispose: «Fammi istruire, ecco quanto ho sempre desiderato di cuore, il resto potrò poi farlo da me». Dopo matura riflessione, fu risolto che tutta la famiglia andrebbe a stare per alcuni anni in Francia. E quindi si imbarcarono, conducendo Seco e Melina. Le grazie di questa vinsero il cuore del primo luogotenente del vascello e poco dopo l'arrivo in porto ella divenne sua moglie. Giorgio fu per 4 anni assiduo a un'università francese e con zelo infaticabile compì la sua educazione. Le agitazioni politiche che sopravvennero in Francia determinarono la famiglia a cercare di nuovo asilo in Canada. I sentimenti e i concetti di Giorgio, quando ebbe compiuto i suoi studi, saranno meglio conosciuti dalla seguente lettera indirizzata ad un suo amico. «Io sono alquanto imbarazzato per ciò che riguarda il mio avvenire. È vero che potrei, come voi mi diceste, mescolarmi fra i bianchi di questo paese, perché non sarebbe facile riconoscere dal colore che io e la mia famiglia siamo di razza meticcia, ma per dire la verità non ne ho troppa voglia. Io provo simpatia per la razza di mia madre, non già per la paterna. Nulla di più io ero per mio padre che un bel cane o un bel cavallo. Per la povera madre mia io ero un figlio. E benché non l'abbia riveduta mai più, dal giorno in cui una crudele vendita ci separò, il cuore mi dice che ella mi amava teneramente. Quando ripenso a tutto quello che soffrimmo, lei ed io, e le angosce e i rischi eroicamente superati da mia moglie e da mia sorella venduta sul mercato di New Orleans, benché io non senta odio contro alcuno. Posso ben essere scusato se dico che non ho gran premura di spacciarmi per americano né identificarmi con quella nazione. Il mio cuore è per la razza africana che vive oppressa e schiava e per parte mia vorrei avere la tinta ancora più bruna piuttosto che somigliare a un creolo. La sola cosa che anelo è di costituirmi una nazionalità africana. Vorrei un popolo di colore che avesse una propria separata esistenza, ma dove trovarlo? Non in Haiti, poiché quivi si cominciò senza alcuna forza morale. Un ruscello non può innalzarsi al di sopra della sorgente. La razza che formò il carattere degli haitiani era una razza logora, effeminata, e perciò la razza che fu soggetta starà dei secoli prima di sollevarsi alcun poco. Dove mi volgerò dunque? Sulle rive dell'Africa io vedo una repubblica formata da uomini scelti che per l'energia dell'animo loro e per la forza della loro intelligenza si sono da per se stessi, in più di un caso, innalzati sopra la condizione della schiavitù. Dopo aver attraversato i tempi critici e le difficoltà della propria fondazione, quella repubblica diventò una nazione indipendente sulla faccia della terra ed è riconosciuta dalla Francia e dall'Inghilterra. Colà voglio andare per acquistare il titolo di cittadino. So che voi non potrete in tutto questo convenire meco, ma prima di giudicare, ascoltate. Durante il mio soggiorno in Francia, tenni dietro con vivissimo interesse alla storia del mio popolo in America. Osservai da gran tempo la lotta tra abolizionisti e colonisti ed ebbi, come spettatore, impressioni tali che non avrei potuto avere partecipando alla lotta stessa. Concedo che questa Liberia abbia sovvertito ogni specie di buoni propositi. Sì, da servire di eccezione contro di noi. Senza dubbio i nostri oppressori si valsero di ciò come mezzo di ritardare la nostra emancipazione, ma non c'è un Dio al di sopra di tutti gli uomini. Non può egli, nonostante tutti gli ostacoli, fondare per noi una nazione? Ai tempi nostri una nazione si crea in un giorno, essa trova risolto il gran problema di una vita repubblicana e di una compiuta civiltà, non vi è in ciò da scoprire ma ad applicare. Uniamo le nostre forze e vedremo quale partito si possa trarre da questa nuova impresa. Il meraviglioso continente africano si apre dinanzi a noi e ai nostri figli. La nostra nazione spanderà intorno a sé l'influsso della civiltà e del cristianesimo e vi fonderà potenti repubbliche, le quali, propagandosi con la rapidità della vegetazione dei tropici, fioriranno per tutti i secoli a venire. Direte forse che io abbandono i miei fratelli schiavi? Penso di no. Se io li dimentico un'ora, un istante della mia vita, e Dio dimentichi me pure. Ma che posso fare io qui per loro? Posso rompere le loro catene? No. Non lo potrei come individuo, ma lasciate che io faccia parte di una nazione, la quale abbia voce nella famiglia delle nazioni, e allora potremo parlare. Una nazione ha il diritto di discutere, di fare rimostranze o preghiere e di perorare la causa della propria razza, ma non lo ha un individuo. Se l'Europa diviene una confederazione di nazioni libere, come spero in Dio che sarà, se un giorno la servitù e le ingiuste oppressive disuguaglianze sociali spariscono, se le altre nazioni, imitando la Francia e l'Inghilterra, riconoscono la nostra indipendenza, allora noi difenderemo innanzi al Congresso dei Popoli la causa della nostra razza schiava e sofferente. E poi non è possibile che la libera e assennata America non brami cancellare dal suo stemma l'infausto segno di bastardume che la disonora agli occhi delle nazioni e che è una maledizione per essa non meno che per i suoi schiavi. Ma voi mi direte che noi abbiamo lo stesso diritto di fonderci nella Repubblica Americana quanto gli irlandesi, i tedeschi, gli svedesi, ne convengo. Ma noi dovremmo essere liberi di incorporarci alla nazione, di prendervi posto secondo il nostro valore individuale, senza considerazione di caste e di colore. E chi nega a noi questi diritti smentisce i principi da lui professati nell'uguaglianza umana. Qui, agli Stati Uniti soprattutto, importerebbe che noi avessimo non solo diritti uguali agli altri cittadini, ma qualche cosa di più perché noi abbiamo più che il diritto comune. Abbiamo i diritti di una razza conculcata a cui si deve una riparazione. Ma io non voglio questo. Voglio un paese, una nazione mia propria. Penso che la razza africana, o dotata di attitudini che devono essere sviluppate dalla luce del cristianesimo e della civiltà, e che diverse da quelle della razza anglosassone, potrebbero moralmente essere superiori. La razza anglosassone ha rappresentato una gran parte nel mondo durante un periodo di sforzi e di conflitti. La sua missione era in accordo con la sua energica inflessibilità, ma come cristiano io aspiro a un'era nuova. Credo che vi perverremo e l'agitazione convulsiva dei popoli altro non è, a parer mio, che il faticoso parto di un'epoca di pace e di fratellanza universale. Lo sviluppo dell'Africa deve essere in essenza cristiano. La sua razza non è fatta per la dominazione, ma è di cuore mite, generoso, proclive al perdono. Rimasta a lungo nella fornace dell'ingiustizia e dell'oppressione, essa ha bisogno di attenersi più strettamente a quell'eccelsa dottrina d'amore e di perdono che sola può renderle certa la vittoria e che dovrà da noi essere sparsa su tutto il continente africano. Quanto a me, lo confesso, in ciò sono debole. Il sangue che mi scorre nelle vene è il sangue bollente e vivo dei sassoni, ma ho nella persona della mia leggiadra moglie un eloquente predicatore del Vangelo. Se travio, ella con dolcezza mi riconduce alla retta via e mi ricorda la vocazione cristiana e la missione della nostra infelice razza. Patriota e cristiano, io vo nel mio paese, nella mia prediletta e gloriosa Africa, e ad essa, nel mio cuore, io applico alle volte queste splendide parole della profezia. Perché tu fosti abbandonata e odiata, segno che nessuno passava per le tue mura, io ti esalterò in eterno e gioiranno in te molte generazioni. Voi mi chiamerete entusiasta, signore, e direte che non ho ben considerato le conseguenze della mia impresa, ma io pensai maturatamente e tutto calcolai. Vado in Liberia, non come ad un Eliseo da romanzo, ma come ad un campo da coltivarsi. Io intendo di lavorarvi con lena, contro ogni sorta di impedimenti e difficoltà, e fino alla morte. Ecco perché io vado, e in questo sono certo che non rimarrò deluso. Checché possiate pensare della mia risoluzione, non mi togliete la vostra fiducia, e credete che io agisco in tutto con un cuore interamente dedito ai miei fratelli. Giorgio Harris. Alcune settimane dopo, Giorgio con la moglie, coi figli, la sorella e la suocera si imbarcò per l'Africa. Se non ci inganniamo, verrà tempo in cui sentiremo ancora parlare di lui. Degli altri personaggi della nostra storia non abbiamo gran cosa da narrare, soltanto diremo poche parole intorno a Miss Ofelia e a Topsy e dedicheremo a Giorgio Shelby un capitolo di commiato. Miss Ofelia, con gran sorpresa della sua famiglia, menò seco Topsy nel Vermont. La famiglia sulle prime la considerò come una giunta inutile al loro ben regolato andamento domestico, ma tanto buon successo aveva ottenuto Miss Ofelia nei suoi sforzi per educare la sua allieva che ella entrò presto nelle grazie a tutti. Giunta all'adolescenza, chiese di essere battezzata e fu poi ricevuta a far parte di una chiesa cristiana del luogo. Ella dimostrava tanta intelligenza e tanta operosità, tanto desiderio di far del bene al mondo che finalmente ebbe l'onore di essere spedita in qualità di missionaria in una delle stazioni d'Africa. Ci hanno accertato che la stessa ingegnosa vivacità, la quale rese tanto difficile la sua propria educazione, ora è adoperata in un modo salutifero all'istruzione dei fanciulli della sua terra natia. Post scriptum, riuscirà gradito a più di una madre sapere altresì che la signora De Thou, dopo varie ricerche, poté trovare il figlio di Cassie. Esso è un giovane di molta energia ed essendo riuscito a fuggire alcuni anni prima di sua madre, era stato accolto nel settentrione dagli amici degli oppressi. Fra poco, egli raggiungerà la sua famiglia in Africa.